Luoghi d'arte. Un cordiale saluto da Marco Carminati. Sono nel centro del mondo. I nostri antenati ritenevano che il centro del mondo fosse esattamente il Campidoglio, il Colle Capitolino. Perché questo colle dove oggi abita il sindaco di Roma e dove ci sono dei meravigliosi musei, i musei capitolini, era ritenuto il cuore del mondo? Perché qui si venerava il principe degli dei, Giove, il Giove Capitolino. E i romani, già al tempo dei re Tarquini, avevano costruito un colossale tempio dedicato appunto a Giove del Campidoglio, cioè a Giove Capitolino. Questo tempio doveva essere di dimensioni leggendarie, doveva incombere su tutta la città e naturalmente è andato completamente distrutto nei secoli. Solo alla fine dell'Ottocento, facendo delle operazioni di scavo, si è rinvenuto il podio, cioè la base sopra il quale questo tempio poggiava. Però come fosse il tempio e soprattutto come fosse decorato non lo si sapeva, finché, guardando bene l'incredibile quantità di materiale che si era trovata nella terra di questo scavo, ci si rese conto che questo materiale era pieno di piccole sculture, di tegole dipinte, di antefissi, che sono delle piccole sculture in terracotta naturalmente, che stanno alla base delle tegole, che decorano la base delle tegole. Insomma, si è trovato praticamente la decorazione del tempio al tempo naturalmente dei Tarquini, qualcosa di così antico e difficile immaginare a Roma. Bene, tutto questo è stato messo in mostra, in una bellissima mostra allestita al Campidoglio, che naturalmente coglie l'occasione per raccontare attraverso questi bellissimi oggetti che sono dipinti, noi vediamo appunto delle pitture del tempo dei Tarquini e insieme naturalmente ad altri reperti che raccontano la storia straordinaria di questo grandioso tempio, che noi oggi possiamo vedere solamente nelle basi entrando nei musei capitolini e andando nella sala dove c'è la celebre statua del Marco Aurelio. Ecco, non guardate solo il Marco Aurelio, voltatevi a sinistra e vedrete anche la base del tempio di Giove Capitolino.